La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, un saluto da Franco D'Assisti. Questo è il nostro pomeriggio al cinema qui su Radio 24, La Rosa Purpurea. Settimana che sembra quasi autunnale, non per il clima a livello meteorologico, ma per le uscite cinematografiche. 9 nuovi film nelle sale italiane, ma soprattutto titoli che veramente sembrano appartenere al pieno della stagione, per tante vicissitudini. Abbiamo dentro titoli importanti, ma anche un vero musical con la firma di Clint Eastwood, Jersey Boys. Volete sentire la vera storia? È con me che dovete parlare, Tommy DeVito. Se non c'ero io, finivamo tutti con una pallottola in testa. Con amici così, cambiati il cognome in Sinatra. Io diventerò grande come Sinatra. Vorrei presentarvi una mia nuova scoperta, Frankie Valli. Le avevo sentite tutte, ma mai una voce come quella di Frankie Valli. Voglio assolutamente scrivere per questa voce. Frankie, il mondo sentirà quella voce. Volete che produca le vostre canzoni? Trovatevi un nome, un sound e combineremo qualcosa. Senti, abbiamo qualcosa per te, chiaro? Sherry. Prepara la pista, raddoppieremo la voce di Frankie, esploderà dalla radio. Non è un sound diverso, adoro questo disco! You're just too good to be true. Tommy è nei guai. Perché non è venuto lui? Can't take my eyes. Il fatto è che i guai erano cominciati già da tempo. It'd be like heaven to. Tu hai la voce, io le canzoni, ci mettiamo insieme. Secondo voi Frankie avrebbe dato il ben servito a Tommy? È questo che pensate? Non siete del New Jersey. Frankie Valli, i Four Seasons, la storia, una delle storie musicali più belle, interessanti degli anni 60 e oltre americani. Una parabola che incrocia una sorta di territorio caro a Martin Scorsese, quello delle gang italo-americane. Qui siamo nel New Jersey, di quanto anche la mafia, la malavita organizzata americana possa fare per l'ascesa di un personaggio e di un gruppo che hanno avuto poi il talento per andare avanti. La storia di Frankie Valli, qui nel film manca la canzone, forse una delle più famose, Grease, la title track dell'altro musical, quello con John Travolta e Olivia Newton-John, ma ci sono I Can't Take My Eyes Off You, avete sentito qualche nota, ci sono Sherry, ci sono canzoni che hanno segnato con quel falsetto di Frankie Valli, con quella voce così strana e così straordinaria, la musica americana di quegli anni. E la cosa singolare è che a dirigere questo musical, che è stato ed è ancora tuttora in scena, un musical di Broadway di grande successo, tanto che il cantante protagonista e l'attore protagonista è lo stesso attore del musical broadwayano, insomma la firma su questo musical è quella di un cowboy come Clint Eastwood, che sicuramente non tradisce lo spirito di questa parabola, di questa storia, anche se forse nella prima parte soprattutto del film la sua regia accusa qualche passaggio a vuoto che fa calare un po' il ritmo. Quando poi la musica prende il sopravvento nella seconda parte, le cose vanno meglio. Chiedo conferma o no di questa mia visione di questo film di Jersey Boys al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao Franco, che dire, io mi sono divertito come un pazzo e secondo me è la prima cosa da dire su un film come Jersey Boys, che è di una classicità parossistica, sembra un film degli anni 70 sugli anni 50. Hanno criticato tanto Clint Eastwood per questo film, io lo capisco poco, anche se capisco i motivi per cui queste critiche sono arrivate. Si toglie ogni sfizio che un regista giovane si vuole togliere, anche se va per gli 80. Fa parlare in camera i suoi protagonisti con un fare quasi ossessivo, addirittura si tiene un Christopher Walken che ride fuori scena della sua battuta in uno dei momenti cruciali. Il finale, la scena finale è Bollywood purissima e avrei pagato per essere sul set quel giorno con Eastwood che indicava a Walken come muoversi per ballare. Il punto è però che secondo me Eastwood c'entra in pieno, nonostante le Le piccole sbavature di regia che ci sono, e sono d'accordo con te, c'entra in pieno quello che doveva essere lo spirito del film, uno spirito che doveva essere allo stesso malinconico ed entusiasmante, come era stata poi la parabola di Frankie Valli, che era riuscito ad imporre quella voce su cui pochi avrebbero scommesso, se non un mafioso come Christopher Walken, molto particolare, che tende a commuoversi molto facilmente, e che riesce ad avere un successo clamoroso rovinato dalla fedeltà che nel New Jersey, come appunto dice uno dei protagonisti, è necessaria, è una lealtà da cui non si può prescindere, e questo rovinerà la sua vita, non rovinerà la sua carriera, perché probabilmente la canzone più bella la scriverà nel momento più difficile. E sì, è un film come non eravamo abituati a vederne più, con un affetto verso i personaggi, una dolcezza nel racconto, anche un eccesso nel melodramma che non ci saremmo mai aspettati, soprattutto da Clint Eastwood. Ma io vi sfido a uscire dalla sala senza canticchiare, senza battere il piede e senza il sorriso sulle labbra, e francamente per me il cinema è questo. Beh, assolutamente è un risultato, questo è sicuramente un grande risultato. E poi c'è sicuramente il tema della scoperta o della riscoperta dei Four Seasons, che sicuramente chi ha meno, diciamo così, di almeno 50 anni oggi come oggi rischia sicuramente di non avere mai sentito nominare. E allora questo è Jersey Boys. Noi a questo punto ci prendiamo una piccola parentesi e andiamo a giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Ebbene, eccola arrivata. Era ora. Oh, mia cara ragazza, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. E allora, un incontro fra chi e chi, e questo già vi potrebbe dare una dritta. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo di questo film e scriveteci anche il vostro indirizzo. Provate a vincere una delle due copie in Blu-ray che vi aspettano, proprio di questo film, che sveleremo la prossima settimana, ma fra qualche minuto vi daremo un'altra traccia. E allora andiamo avanti con uno degli ultimi film girati da Philip Seymour Hoffman prima della sua prematura scomparsa, Synecdoche in New York, film che ha avuto vicissitudini di distribuzione piuttosto imponenti che ne hanno ritardato l'uscita in Italia a questo 2014, peraltro a questo mese di giugno, ma rimane un film che ci può dire molto, un film che racconta e mischia i linguaggi di cinema e teatro, un regista reduce dal successo di una sua messa in scena di Morte di un commesso viaggio. Attore si prepara ad affrontare il suo nuovo lavoro e fellinianamente vorrebbe ricostruire dentro un magazzino di Manhattan una parte di New York a grandezza naturale. Sentiamo la clip. È un brutto momento. Sto male. Sto morendo. No! Aiuto! Può dirmelo? Non può dirmelo? No, non può dirmelo, se non può dirmelo. Non posso dirglielo. Mi sento solo? Sì. E? Sento che sto per morire. Nient'altro. Non so cosa ho che non va e vorrei fare qualcosa di importante finché sono vivo. Sarebbe proprio il momento di farlo, sì. Boris, cosa possiamo dire di questa prova di Philip Seymour Hoffman, che ci mancherà, mi mancherà sempre molto al cinema, e soprattutto di questo arrivo sugli schermi così ritardato? Perché è la dimostrazione che Philip Seymour Hoffman, appunto, ci mancherà veramente tantissimo. Attore straordinario che qui, preso dall'esordiente Charlie Kaufman, che registicamente a livello di sceneggiatura non si risparmia, non ci risparmia nulla, però a lui consegna un personaggio che comunque deve lavorare per sottrazione, non tanto nella costruzione della sua vicenda quanto proprio nei toni della recitazione, e secondo me nel momento in cui il buon Seymour Hoffman aveva delle corde a cui essere legato, diventava ancora più grande. Kaufman è lo sceneggiatore di Essere John Malkovich, è lo sceneggiatore di Eternal Sunshine of Spotless Mind, conosciuto in Italia con il terribile titolo di Se mi lasci ti cancello, è un genio assoluto. Alla regia decide di fare un mix tra Fellini e Pirandello, che devo dire è da una parte l'ingenuità a cui tutti i registi da cui tutti i registi rimangono sedotti, dall'altra però forse lui è l'unico che se lo può permettere e quindi prende questo regista che cerca personaggi fuori e dentro se stesso per ricostruire la sua vita in un teatro di posa enorme. Questo permette a Kaufman una serie di acrobazie narrative e visive straordinarie, a Hoffman di essere uno, nessuno e centomila, a proposito sempre di Pirandello, e a noi di abbattere la quinta parete, di abbattere quel diaframma che ci separa dalla società dello spettacolo e dallo spettacolo, vedendone anche tutte le fragilità. Kaufman non se ne nega e queste forse sono sia le debolezze che le grandi forze del film. Alla fine, a mio parere, è un film assolutamente da vedere. Dispiace che alla fine sia arrivato in sala in Italia probabilmente solo per la prematura morte di Philip Seymour Hoffman, altrimenti sarebbe rimasto nel dimenticatoio, nonostante un passaggio a Cannes straordinario e nonostante le critiche meravigliose. Abbiamo dovuto aspettare tanto, per fortuna alla fine ce l'abbiamo. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, dicevamo, vi abbiamo promesso, parleremo di commedie con cast importanti. Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton in Tutte contro lui di Nick Cassavetes. Che fine hanno fatto il dottore mezzo ritardato e il rabbino Fico? E il cugino Fico del rabbino Fico? Spariti. Hai eliminato tutta la formazione. Ho sgombrato la panchina. Che succede? Ha telefonato la domestica, è scoppiato un tubo nel bagno. Devi andare nel Connecticut ora. Dobbiamo rimandare. Sto cercando Mark, lei deve essere la domestica? No, sono sua moglie, Kate. Lei è una spogliarellista o una massaggiatrice? Che è successo? Ha una moglie. E non credi di poterla eliminare? E allora c'è tutto dentro questo trailer, la storia di Carly, avvocato di successo che ama Mark, una bella vita a New York, ma un giorno si rivela la verità, l'uomo ha una moglie, che avete sentito nel finale del trailer. Boris, Nick Cassavetes ancora alle prese con una commedia, qui mi pare però si vada un po' troppo sul piatto. Assolutamente d'accordo, tra l'altro come sappiamo Nick Cassavetes il meglio se lo ha dato, lo ha dato nel melodramma, la commedia non è proprio nelle sue corde. Qui sfrutta una buona vena che ultimamente vediamo spesso di Cameron Diaz, che però continua ad avere probabilmente un pessimo agente perché continua a scegliere sempre i copioni sbagliati e quindi tenta disperatamente di tenere alto l'interesse sul film, non riuscendoci però quasi mai, se non forse nei momenti più slapstick, nei momenti in cui diciamo vendette delle due tradite, perché appunto non c'è l'eliminazione ma un'alleanza, diventano parossistiche, abbastanza folli e non di rado demenziali. Detto questo però la regia mi sembra anche piuttosto sciatta, cosa che a Cassavetes Nick non succedeva di solito. La sceneggiatura, come dici tu, è piatta e nella recitazione si sente Cameron Diaz, ma per modo di dire. Insomma, non c'è moltissimo da salvare in questo Tutte contro lui, che comunque rimane la commedia, per chi ama ovviamente il genere, va al cinema a vedere questo genere, la commedia sicuramente più importante, insomma, più da locandina di questa settimana. Andiamo avanti a giocare perché dobbiamo sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi. Buongiorno, Pamela. Sono davvero sconcertata nell'udire un perfetto sconosciuto chiamarmi per nome. Signora Travers, per favore. Le chiedo perdono, signora Travers, sono Don D'Agradi, lo sceneggiatore. Co-sceneggiatore? Avrò certamente da dire la mia, signor D'Agradi. D'Agradi. E allora qui ci sono anche un po' di nomi e cognomi, andate a ricercare se non avete ancora capito di che film si tratta, se no invece scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana sono lì che vi aspettano. Parliamo adesso di un film italiano. Abbiamo cominciato con la musica, con Jersey Boys, ancora musica in questo piccolo film, però con motivi di interesse italiano, che si intitola La pioggia che non cade. Ammazza che sound! Ti facciamo entrare nell'ambiente, noi conosciamo, noi qua, noi là. Ma noi chi? Ma quanti erano? Uno. Nel giro di una settimana facciamo il videoclip, incidiamo il singolo e facciamo pure il CD. E va a finire pure che vinciamo il disco d'oro! Allora, Boris, La pioggia che non cade di Marco Calvise con Francesca Nunzi, Viviana Colais, spero di centrare la pronuncia, e Lucia Centorame. È un po' il ritorno del musicarello? Forse no, in questo senso il musicarello forse no, però è un po' il ritorno del film musicale, adesso senza voler scomodare paragoni importanti, chiaramente bisogna usare le debite proporzioni, non è così lontano parente di Jersey Boys, si prende un gruppo, in questo caso sconosciuto, l'Inverso, molto bravi, c'è anche un violoncello a rendere molto particolare questa sorta di pop cantautoriale di questo gruppo abbastanza giovane, perché poi giustamente loro ci tengono a dire che comunque hanno 35 anni, hanno tutti un altro lavoro, si sono incontrati tra la facoltà di medicina e altri posti, e Calvise insieme al soggettista e sceneggiatore decide di raccontare la loro storia. Non è un biopic, è semplicemente il racconto della parabola più classica di un giovane gruppo italiano, la ricerca del successo, la ricerca dell'essere pubblicati attraverso produttori poco raccomandabili, attraverso il sogno di un festival, attraverso anche però tutte quelle piccole storie sentimentali e non che si costruiscono all'interno di una dinamica come quella che è un gruppo musicale. Il film ha le sue ingenuità, è stato girato in 6 settimane, quindi inevitabilmente non è perfetto, ma ti accarezza il cuore e ti accarezza l'orecchio, il che non guasta, e quindi va detto che con tutte le sue imperfezioni, però a mio parere va al centro dell'obiettivo, ti fa affezionare a questo gruppo che prima non conoscevi e che dopo sentirai almeno una volta al giorno, e ti racconta una storia divertente, una storia che ti intrattiene e si porta fino alla fine del film con grazia, e non è poco. E allora, questo è il film La pioggia che non cade. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, esaurita la pagina sui film, sulle novità in sala, vi ricordo ce ne sono anche altre, ma insomma poi avrete tutte le possibilità per informarmi, ma questi sono un po' i nostri consigli. Andiamo a risolvere il game della scorsa settimana. Sentiamo. Il cuore come va? Batte ancora. Vuoi entrare in guerra? Devo mettere insieme una squadra per proteggere ciò che è rimasto e trovare ciò che manca. Non sei un po' troppo vecchio? Sì. E allora, si trattava di Monuments Men, uno dei film che hanno segnato la parte iniziale di questa stagione cinematografica. Ricorderete l'anteprima mondiale a Milano, la visita di George Clooney, regista, a Santa Maria delle Grazie, insomma, grande rutilante mondo dello spettacolo, dalle parti appunto della Madonnina, per raccontare questa storia di guerra, ma anche di arte. Ne parliamo con Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Ci sono due storici, un esperto d'arte, un architetto, uno scultore, un mercante, un pilota britannico e un soldato. Non è una barzelletta, ma una storia verissima tra le tante storie che compongono quella con l'S maiuscola. Monuments Men, che racconta di un improbabile gruppo di esperti benedetti da Roosevelt che sono incaricati di recuperare le opere d'arte che Hitler ha requisito per alimentare il proprio museo del Führer, o in alternativa di distruggerle. Il Blu-ray della Fox mantiene elevata e omogenea la qualità delle immagini girate da Clooney sia in pellicola che in digitale, e presenta 30 minuti di contenuti extra con l'intervista ai veri Monuments Men, un focus su Cate Blanchett e il suo ruolo in un cast prettamente maschile di superstar, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman e Jean Dujardin, e un approfondimento sul doppio ruolo di Clooney, che qui è attore e regista. E allora, questo per quel che concerne il game della scorsa settimana, Monuments Men. Ricordo i vincitori, i nostri ascoltatori che lo riceveranno a casa, questo Blu-ray. Si tratta di Rosaria Marino di Napoli e di Emanuele Mariani di Milano, sono loro due che per primi hanno indovinato il titolo del film della scorsa settimana. Andiamo invece a fare un salto sui palinsesti televisivi, vediamo cosa ci consigliano gli amici di Film TV. Questa volta una segnalazione dalla prima serata di Iris martedì prossimo, con un film che è sempre un grande classico, Scarface. Sì, Harry rifacimento di un film seminale fondativo del cinema classico, Scarface e lo sfregiato di Howard Hawks degli anni 30, una sublime tragedia gangster ispirata alla storia di Al Capone, che De Palma adegua all'edonismo, diciamo, cocainico degli anni 80, esplicitando ogni sottotesto, ogni non detto, abbattendo diversi tabù in una sinfonia di parolacce, nevrosi violente, scoppi d'ira, erotismo malato, proiettili, facendo letteralmente degenerare l'originale in un cinema assolutamente barocco, coscientemente kitsch, ironico, grottesco e sempre sopra le righe, seguendo l'ascesa e la caduta di un Al Pacino che sbrana i limiti del metodo Stanislavski. E allora questo è il consiglio, anche perché in prima serata, se non siete proprio super impegnati coi mondiali, alle 21 di martedì 24 giugno su Iris c'è Scarface. Grazie Giulio, grazie agli amici di Fil TV. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati così alla conclusione della nostra trasmissione, non mi resta che ringraziare Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, e poi anche darvi appuntamento alla prossima settimana, nonché ricordarvi la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e restate con noi 7 giorni su 7. Un saluto da Franco D'Assisi.